Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati e buona Pasqua. Sono ancora in tempo per farvi gli auguri da Maria Luisa Pezzali. Nei giorni in cui il TAR di Roma ha deciso di mettere fuori legge Uber in Italia, questa volta Uber Black per Uber Pop era già successo, in attesa della riforma del settore che tarda ad arrivare, ha attirato la nostra attenzione un libro che parla di uberizzazione dei consumi e del potere della disintermediazione, una riflessione preziosa che mette in guardia dal rischio di ridurre il confronto a una questione di ideologia. Sono italiani i vincitori del Global Change Award, la sfida annuale per l'innovazione lanciata dalla H&M Foundation. Il premio di 1 milione di euro è stato suddiviso tra i vincitori scelti dal pubblico di tutto il mondo attraverso una votazione online. Sono le idee che puntano a reinventare l'industria della moda per accelerare il passaggio ad un approccio circolare e senza sprechi. E poi dal marmo indossabile alle lampade sospese nel vuoto, quando i consumi giocano con la leggerezza reale e percepita e con la forza di gravità. The Uberization of everything is really, people use the word, the on-demand economy. We kick off the year talking about the Uberization in banking. Here's what's happened. It's the Uberization of our world. Okay, so what are we going to talk about today? We're going to talk about the Uberization of the food industry. We now see the so-called Uberization. Uberizzazione, dal nome dell'app che ha rivoluzionato il mondo della mobilità. È una delle parole del momento nel mondo dell'economia e dei consumi, indica soprattutto la disintermediazione che molte delle piattaforme della sharing economy rendono possibile. Un modello che contagia ormai tutti i settori, dalla mobilità ai viaggi, passando all'informazione, l'istruzione, il credito. La disintermediazione supera i confini tra i mercati, gli argini normativi e la specializzazione delle professioni, scrive Antonio Belloni, autore di Uberization, al quale chiediamo subito la definizione della parola e la sua declinazione nel libro. Come lo declino io nel libro? Lo prendo a prestito da una vaga un po' americana per definire un processo quando viene reso efficiente, veloce, magari togliendo qualche intermediario per raggiungere l'obiettivo in maniera diretta, parlando direttamente con il consumatore o con il cliente. Chiaramente, come il fordismo è preso in prestito dal nome di un'azienda che è Uber in questo caso. Equivale all'on-demand economy? Non esattamente, è un pochettino più generico. L'on-demand economy è un modo come un altro per descrivere una grande fetta di offerta di lavoro, di materie prime, di disponibilità economiche pescata magicamente grazie alle tecnologie in un grande mercato aperto, quando si vuole e nella quantità in cui si vuole. L'uberization non è nient'altro che una resa di efficienza di qualsiasi processo ed è, diciamo, un verbo transitivo che ha il complemento oggetto, nel senso che qualsiasi processo può essere uberizzato, reso efficiente, veloce e diretto. Chiaramente questa uberizzazione negli Stati Uniti, che sono sempre più veloci di noi, ha contagiato mille cose e viene utilizzata per dire, con l'e-commerce più generico che elimina il negozio, ma anche con la medicina, quando il telelavoro consente di farti una ricetta da casa senza spostare il medico. Faccio un esempio molto banale. È chiaro che la possiamo trasportare un po' in tutti i paesi e in tutti i contesti, cercando di andare a colpire le strutture vecchie, le strutture obsolete, i percorsi farraginosi e lenti, dove magari ci sono tanti intermediari che rendono il tutto più lento. Tu in pratica scrivi, i sostenitori la vedono come la formula perfetta per, esatto, per ridistribuire denaro, opportunità, potere e gerarchie, scrivi. I detrattori, dico io, ne evidenziano i lati oscuri, quindi la mancanza di professionalità, la tutela del consumatore, la concentrazione del capitale nei grandi venture capitalist, i problemi giuslavoristici per chi lavora. Li abbiamo visti, i casi Foodora, la stessa Uber, insomma, che ha avuto problemi, ecco. E tu scrivi, c'è il rischio che diventi un'ideologia. Soprattutto in un paese come il nostro, perché negli Stati Uniti non è diventata un'ideologia. Si parla da 30 anni di disintermediazione, da quando non c'era ancora internet. Oggi si parla di uberizzazione senza cavalcare gli insuccessi o i successi di un'azienda come Uber. Nel nostro paese, come accade ogni volta, il grande disintermediatore è stato Grillo, è stato Renzi, parlo di politica, o sono questi nuovi modelli di business. Purtroppo ci rendiamo conto oggi, e negli Stati Uniti lo fanno già con lucidità, che tutto questo porta qualcosa di buono e qualcosa di negativo. Il qualcosa di buono è riorganizzare in maniera efficace e veloce strutture, come dicevo, vecchie o magari lente o disorganizzate, guarda caso i partiti, per esempio, e però dall'altra parte pensare che tutto possa essere risolto da un algoritmo è piuttosto ingenuo ed illusorio. Notizia di qualche giorno fa: Uber per la seconda volta in Italia viene bloccata per legge, tra virgolette, insomma, la decisione di un tribunale che blocca l'operatività di Uber, in questo caso Uber Black, che era sopravvissuta appunto a Uber Pop, che aveva ricevuto già il primo blocco. Ecco, il tema legislativo nell'uberizzazione c'è, esiste solo in Italia? È centrale per un motivo molto chiaro, perché quando le tecnologie si insinuano in maniera infingarda dentro questi sistemi vecchi, li ribaltano e li sconvolgono completamente, dando vita a, dicevo, delle specie alloctone, quindi dei modelli di business che sono completamente ignoti, perché hanno delle caratteristiche nuove. Come possiamo definire eBay? Un venditore di prodotti o un intermediario di informazioni tra un compratore ed un acquirente? Uber che cos'è? Un'azienda che fa trasporti o fa servizi informatici connettendo dei driver con dei clienti? Non lo sappiamo ancora. Il legislatore o anche il regolatore, anche a livello più alto di quello italiano, come quello europeo, fa molta fatica a, come dicono i giuristi, a creare una fattispecie, no? A dire quali sono le condizioni per cui riusciamo a riconoscere un modello di business. Quindi legiferare o regolamentarlo è molto difficile. Chiuderei citando la metafora dell'agave blu con cui tu ben rappresenti insomma questo processo faticoso che poi dovrà portare a qualcosa, insomma, la raccontiamo? Sì, l'agave blu è quella pianta che sembra un grande ananas con delle punte lunghissime che vengono lentamente tagliate per cavarne una palla che si chiama pigna, che pesa anche 100 kg, viene caricata su questi asini, e la metafora è poi che questa palla diventa, con la macerazione e lo zucchero, diventa la tequila. Ora, il senso qual è? Che voi che fate questo bellissimo lavoro vedete ogni giorno dei nuovi guru, che io non sono, che vi presentano delle nuove teorie economiche su il 4.0, la disintermediazione, eccetera. Allora bisogna sempre fare come con l'agave blu, e quindi tagliare, lasciar macerare e vedere se la nuova formula, che magari viene dall'estero, è davvero funzionale al proprio paese, se è davvero applicabile a tutto, e bisogna prendere quel poco di utile che ha, insomma, senza farla diventare appunto un'ideologia, una medicina che va bene per qualsiasi cosa. Facciamo subito nostro il consiglio, anche con spirito di autocritica che non guasta. Grazie ad Antonio Velloni per grazie, essere stato con noi. Grazie a voi. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reinventare l'industria della moda, consentendo a prodotti e materie prime di avere più di una vita. Questo è l'obiettivo del Global Change Award, il premio della Fondazione H&M, che intende accelerare il passaggio ad un sistema circolare e senza sprechi nel mondo della moda. A vincere il primo premio un team italiano, Grape Leather, pelle vegetale ricavata dall'uva e dagli scarti della produzione del vino. Ce lo racconta Valentina Longobardo. Per noi è stata un'emozione fortissima, già essere tra i primi cinque ci ha riempito d'orgoglio, vincere addirittura il premio è stata un'emozione davvero fantastica, perché vedere riconosciuto il valore del proprio progetto da una fondazione così importante come H&M è una cosa abbastanza importante, e soprattutto siamo molto contenti del fatto che grazie a questo premio avremo l'opportunità di proiettarci definitivamente nel mondo della moda con grande forza. Per ora, insomma, il vostro è solo un progetto, da qui in avanti può diventare prodotto. Com'è nata l'idea di questa pelle vegetale? Come ci siete arrivati? L'idea è stata di Giampiero Tessitore, che è un architetto di Milano, nonché fondatore di Vege SRL. Giampiero è stato sempre molto sensibile alle tematiche ambientali e il suo desiderio era quello di trovare una vera e propria alternativa green e cruelty free alle pelli animali e sintetiche che sono presenti ad oggi sul mercato. Quindi ha iniziato a collaborare con diversi centri di ricerca e dopo 3 anni di ricerca, grazie anche all'incontro con Francesco Merlino, che è un chimico e attualmente cofondatore di Vege SRL, siamo riusciti a brevettare un processo produttivo che trasforma le fibre e gli oli vegetali presenti nella vinaccia in una vera e propria pelle totalmente ecologica e vegetale, l'abbiamo chiamata come leather. Quindi al tatto è come la pelle, la vestibilità com'è? Esattamente le stesse caratteristiche estetiche e sensoriali di una pelle. È resistente, leggera e morbida, è davvero assimilabile ad una pelle. Ora ci fermiamo per una piccola pausa, continuiamo a parlarne tra pochissimo. Restate con noi perché, a proposito di innovazione sui tessuti, nella seconda parte parleremo anche di tessuti ricavati dal marmo. Pierluigi Pardo, confesso che ho perso il numero delle stagioni. Hai perso il conto perché abbiamo una marea di cose: la Champions League, l'Europa League, il campionato, il calcio internazionale. E poi? Tutti i giorni, tutti convocati. Guarda, è facile. Tutti i giorni, tutti convocati. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15.30 c'è anche De Luca. C'è anche De Luca, è il nostro autore, ma certamente. Siamo ormai una squadra affiatata, anche se ho perso il conto delle stagioni. Di siamo una squadra fortissimi. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere, stiamo parlando con Valentina Longobardo del team italiano vincitore del Global Change Award, il premio della Fondazione H&M per le innovazioni che puntano a reinventare la filiera della moda con un approccio sostenibile. Innanzitutto, nel prossimo futuro avremo bisogno di implementare il brevetto, dopodiché saremo pronti ad iniziare le prime collaborazioni, i primi co-branding con aziende vinicole, ma anche con l'industria della moda. Quanto in questo momento è diffusa nella moda la consapevolezza che bisogna innovare e rendere sostenibile la filiera, proprio a partire dalla materia prima e poi dal riutilizzo degli scarti di produzione? Sì, come sappiamo i consumatori stanno diventando sempre più informati e sensibili, quindi c'è una richiesta sempre maggiore di prodotti green e cruelty free. E quindi confidiamo nel fatto che una porzione sempre maggiore di consumatori cercherà prodotti ecologici al 100% come white leather, anche perché sul mercato attualmente è possibile trovare soltanto pelli animali e sintetiche, anche quelle che vengono impropriamente chiamate ecopelli sono sintetiche e derivano dal petrolio. Ed è significativo che un colosso come H&M, insomma, riconosca che questa è la strada da intraprendere. Esatto, sì, per noi è stata una gioia enorme che una fondazione così importante abbia creduto fortemente nel nostro progetto. Focus sui trend. Architettura e arte, ma anche moda e design fanno da scenario alle nuove sperimentazioni sui materiali che puntano sulla leggerezza anche nei casi più improbabili. E così il marmo diventa indossabile, l'alluminio fluttuante e le lampade sospese nel vuoto. Lo dimostrano i casi che ha selezionato per noi Valentina Ventrelli di Future Concept Lab. Ciao Valentina, bentrovata. Buonasera a tutti. Allora, sono prodotti, oggetti e installazioni in qualche caso quasi spiazzanti, sembrano giocare con la forza di gravità, Valentina. Ma infatti infatti noi sappiamo che, come dire, la sperimentazione sui materiali negli ultimi anni ha regalato, grazie anche alle nuove tecnologie, un engagement fortissimo dal punto di vista fruitivo, perché spesso ci si trova davanti ad oggetti il cui peso percepito non è quasi mai quello reale, per cui è un tema di grande sperimentazione che non è soltanto un gioco da wow effect, ma è proprio un serissimo approccio alla sperimentazione materica. Il primo caso che hai selezionato per noi punta sulla levitazione, sembra una cosa da fantascienza, ma non è così. Il caso di Krealev è un caso molto interessante, perché non è un caso nuovo, è un'azienda nata in Olanda, da Eindhoven, da una relazione padre, figlia, ingegnere e designer, che proprio hanno avuto l'idea di combinare le loro competenze però su un tema che è quello della levitazione, per cui hanno lavorato a lungo per mettere a punto questi moduli che di fatto sono applicabili a qualsiasi oggetto e rendono possibile proprio la levitazione, cioè c'è una base e poi attraverso una forza magnetica e, come dire, una sperimentazione tecnologica molto avanzata, una parte levitante che è applicabile a qualsiasi oggetto, per cui su questo tema l'azienda sta collaborando con designer e aziende di tutto il mondo proprio per la realizzazione di oggetti che vanno dalle casse alle lampade con pezzi fluttuanti nel vuoto. Questo chiaramente è estremamente emozionante, no? Dal punto di vista dell'osservatore e del fruitore dell'oggetto. Il prossimo caso è veramente spettacolare anche nelle dimensioni. Abbiamo postato come sempre le immagini sulla nostra pagina Facebook. Si tratta di un'installazione che utilizza l'alluminio e lo rende qualcosa di inaspettato. Allora, è un'installazione davvero incredibile. Consiglio a tutti i nostri ascoltatori di fare un giro sul sito per guardare le immagini. Ed è un'installazione realizzata ad Orlando da un architetto newyorkese, Mark Forns, che ha uno studio appunto che si chiama The Very Many. Lui è un appassionato di calcolo, oltre che essere un architetto, e realizza appunto queste opere davvero autoportanti. Allora, quello a cui ti stai riferendo si chiama Under Magnitude ed è un'opera che occupa tutto un grandissimo atrio di un centro congressi ad Orlando ed è appunto realizzato con 4600 sottilissime strisce di alluminio forato che ricreano una sorta di corallo gigante che occupa tre piani di questo atrio ed è straordinariamente emozionante perché sembra di essere appunto sotto questo corallo sospeso nel vuoto, che è leggerissimo, però è leggerissimo quanto può essere una struttura gigantesca di alluminio, per cui è un lavoro che è davvero a cavallo tra il design, l'arte e l'ingegneria pura, perché poi queste strutture hanno una difficoltà nella realizzazione veramente straordinaria. Ricerca e sperimentazione anche nella moda, dove addirittura il marmo, lo dicevamo in apertura, diventa indossabile. Allora, questo è un caso tra l'altro italianissimo ed è un caso nato sui banchi non di scuola ma dell'università. Dunque, Vero Marmo è un tessuto brevettato da due studentesse che hanno realizzato poi una startup che si chiama Filippari ed è un marchio, appunto una startup che si occupa proprio dello sviluppo di progetti innovativi sui materiali e sulle fibre. Però tutto è partito da questo progetto, Vero Marmo, che è un tessuto brevettato che rende il marmo indossabile. Viene realizzata una membrana che si realizza a partire proprio dalla polvere del materiale, che viene miscelata insieme ad uno speciale composto e si ottiene praticamente un microfilm che ha tutta una serie di caratteristiche anche performative interessanti. È una fibra impermeabile, traspirante, antivento, è ignifuga ed è leggerissima, per cui si può essere accoppiata poi a cotone, a jersey e a tutti gli altri materiali e ha già un colore e il colore non è tinto, è il colore originario del marmo con cui viene realizzata la polvere. È molto interessante, rappresenta davvero un esempio perfetto di questo gioco che non è semplicemente un gioco di percezione, no? Come si diceva all'inizio, una sorta di ricerca dell'effetto sorpresa, ma diventa anche una nuova risposta risposta funzionale che parte dall'anima vera del materiale stesso. Nella moda sono molti, Valentina, i brand che giocano su nuove fibre, nuove consistenze, anche con vestibilità, immagino, del tutto nuove. Beh, su questo devo dire che l'altro esempio che abbiamo selezionato, di cui invito a guardare l'immagine, è quello di Iris van Herpen. Iris van Herpen è una stilista olandese che da ormai alcuni anni ha davvero introdotto nel mondo dell'alta moda tutto un mondo di materiali, tecnologie e anche processi di produzione completamente nuovi. Diciamo che è stata la prima ad utilizzare la stampa 3D, una delle prime ad utilizzare materiali davvero lontanissimi dal mondo della moda, come l'acciaio accostato alla seta, anche parti di oggetti del quotidiano inseriti nel mondo della moda, ed è considerata una delle pioniere che porta avanti questo tema, come dire, dell'oltrepassare i confini di un settore. È spesso considerata infatti un'artista multidisciplinare, però di fatto ogni stagione riesce attraverso la sua collezione a sorprendere attraverso capi che davvero sembrano giocare col corpo in maniera completamente nuova, per cui proporzioni nuove ma anche proprio materiali che rendono i suoi oggetti veramente delle opere d'arte più che dei semplici abiti, partendo proprio da questo concetto di peso, leggerezza e anche magia. Cioè, molto spesso ci si chiede come stanno su, come sono stati cuciti e realizzati. Infatti spesso non sono stati cuciti ma vengono fuori da una meravigliosa stampante 3D. Valentina Ventrelli, grazie, alla prossima. Grazie a tutti, arrivederci. Il consumautore. Diamo subito il benvenuto al nostro ospite fisso, ci ha raggiunto in studio come sempre per la riflessione finale il sociologo Francesco Morace. Ciao Francesco. Ciao Maria Luisa, buonasera ai nostri radioascoltatori. Questa sera da dove partiamo? Questa sera partiamo dal design che qualche giorno fa, insomma, ha chiuso la sua settimana qui a Milano e, come sappiamo, è un momento importante sia per la città che per il nostro paese, perché sta emergendo molto interessante un nuovo filone che possiamo definire il design gentile. Design gentile che significa concentrarsi creativamente e progettualmente su oggetti, quasi mai sistemi di arredo, ma proprio oggetti d'arredo che accompagnano la vita quotidiana in modo rilassato, mai banale, originale e con un pizzico anche di esotismo e di fiabesco, però molto quotidiani. Ecco, quindi l'altra cosa molto interessante è che quasi sempre sono progettiste donne che propongono questo stile. Faccio qualche nome: Cristina Celestino, Elena Salmistraro, che ad esempio ha proposto questi oggetti anche molto ironici, Nika Zupank, che al di là delle italiane che sono molto forti in questo, Alessandra Baldereschi. Quindi possiamo definirlo davvero un nuovo filone, sweet, diciamo, sweet dream, design sweet dream. E alla gentilezza del resto in questo momento si guarda anche come al nuovo mood per la comunicazione contro la cifra più gridata, più d'assalto di qualche tempo fa. Sicuramente la spinta gentile, no, come è stata definita, riguarda non solo il design, ma riguarda ad esempio la promozione o la comunicazione di prodotti, anche di prodotti di largo consumo. C'è questa idea non più un po' manipolatoria e aggressiva di raggiungere i propri clienti ripetendo continuamente messaggi, ma aprendo invece degli spazi che sono, direi, quasi di consulenza gentile. Poi se il cliente apprezza, sarà lui magari a comprare il prodotto. Ecco, questo è un cambio di passo deciso sia del marketing che delle aziende. È in qualche modo la rivincita anche del politically correct, criticato perché debole, poco incisivo? Ma allora diciamo che è meno ideologico e meno schematico del politically correct, che secondo me anche a ragione è stato criticato, anche perché è una visione molto anglosassone, molto americana, non ci ha mai davvero coinvolto. Nel politically correct si decideva già da prima cosa fosse corretto e cosa meno. Nella spinta gentile si lascia alle persone, alla loro sensibilità, il compito poi di definire i comportamenti. Sicuramente c'è però una visione. Grazie a Francesco Morace, grazie in regia a Paolo Corleone. Essere a Vere torna domenica prossima. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.